Friuli nel mondo. 167esima trasmissione dedicata agli emigrati. Festival di Pradamano 1967. Vogliamo oggi trasmettervi, cari amici radioascoltatori, un secondo mazzetto di canzoni friulane che tanto successo hanno riscosso a Pradamano in occasione del Festival della Canzone 1967. Questo ottavo festival ha dato ancora una volta una chiara prova di quanto fervida sia la vena poetica e musicale dei friulani, che si aggiunge, in chiave moderna, alle antiche tradizioni canore del Friuli espresse in migliaia di villotte popolari ed autore. Nella interpretazione di Arturo Testa, di Vilma De Angelis e Giulia Schell, ascolterete nell'ordine le canzoni Unai Arzovin di Lelo Ciantone e Giovanni Longone, Mai Plui Cussì di Angelo Peloi ed infine Il Ben Plui Grant di Ettore Kreighero e Pippo Sormani. Biel calnas unai arzovin, inte viarte tutem flor, celusor stai voi desfrutis, e c'è sinti cale l'amor, l'usor di lune, si sintim dai pra. Testelis luci sul mar o frutin istantis rosis ca florissin tal avril silis viota viarzil butu par calientri dentri il cil. Sin mage caduta al par trimate stelis lusi sul mar trimate stelis lusi sul mar. Mai plui cussì, alsi e studai. Jazz come glon, staldi di fieste, mai più così, mai più così. Alzi e studiata gli osorelli, ormai la mia sarà per sempre taglio cuore, chi taglio cuore senza di te. Voi guardate jazz e la me pene, ciali tutti intorno di te. Sol cumo, hai capito il tuo ben, che il bene è la vita, ma me per me. Il ben più grande al mondo è solo la mamma, la flamme che come la mamma. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.